martello e vedo cadere un uomo sì onesto. Fratello, che hai fatto? Hai scolpito un tormento, un muro bruciato che spegne il passato e dovrai sopportare ogni sorta di mal. Il peccato distrugge, tu corri ma c'è, non conosco più te, ma son certo che se ti ribelli e confessi ritroverai te. Battaglie lontane, conquista e corre, adesso mi batto e non so perché. Errori banali che invece scontai, per questo orgoglio che non muore mai. Quella spada che fugge taglia la dignità, si perisce ugualmente con poca beltà. Anche quando non vuoi, se colpisci lo sai, tu ferisci un uomo che lì come te. Tanto sangue perché se poi tremi di te, quanto male può fare se cedi al voler. Ma se fermi non c'è, la corabbia non c'è, trasparisce. Mi batto e non so perché.